Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Se quel che fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì. Voglio vedere se si presenta con una rosa al dottor Ruffini. Sì, in commissione tributaria, magari. Allora, salutiamo innanzitutto le ascoltatrici, gli ascoltatori. Buongiorno. Salutiamo anche Deborah Rosciani, anche oggi qui a Due di Denari. Sono mi trovo bene, di sai, torno la mattina, almeno fino al venerdì, domani no. E salutiamo anche Tiziano Ferro, che ci fa piacere salutare. Purtroppo la Cassazione ha confermato la natura fittizia del suo trasferimento della residenza fiscale, ma vabbè, insomma, queste sarebbero anche delle tecnicalità per cui spesso questi artisti pongono la residenza fiscale fuori dall'Italia, ma poi il fisco italiano non è d'accordo con la loro decisione e li richiama all'ordine. Ma la notizia non è esattamente questa. La notizia è che la Cassazione ha dato una tirata d'orecchi al nostro grande cantante Tiziano Ferro, dicendogli: insomma, tu sei una persona importante, sei un, si direbbe adesso, influencer, e allora devi adottare comportamenti consoni perché sei un esempio per tutti gli altri. Questo più o meno gli ha detto la Cassazione. Le parole sono: è un personaggio famoso nel mondo della musica, è in possesso degli strumenti necessari per valutare la giustezza di un determinato comportamento e quindi anche nella quantificazione delle pene pecuniarie pesano una serie di elementi: la natura dolosa del comportamento certamente, ma l'assenza di condotta finalizzata ad eliminare gli effetti dell'evasione. E perché? Perché per i giudici della Cassazione Tiziano Ferro ha un elevato livello economico e culturale e quindi, insomma, deve dare il buon esempio anche dal punto di vista fiscale. Sono colpita, insomma, però io vorrei sottoporti un'altra notizia e volevo passare così dalla storia di un gigante della musica con un gigantesco problema fiscale ad un investimento gigantesco. Un gioco di parole per arrivare a raccontare appunto ai nostri ascoltatori questa notizia. Visto che siamo un po' come dire, a corto di idee per quello che riguarda gli investimenti da fare, magari prossimamente potremo tutti partecipare ad una asta di Christie's se deciderà di mettere in vendita altri dinosauri. Nella fattispecie qua parliamo dello scheletro di un tirannosauro che è stato appunto messo all'asta da questa grande casa, da Christie's per l'appunto, ed è stato venduto per la modica cifra di 31,8 milioni di dollari. Chissà chi se lo è aggiudicato, ma soprattutto chissà poi dove se lo metteranno, in casa, in soggiorno. Mi mancava, lo so, il virgola 8, non ho potuto intervenire. Pensa che è una cifra che ha superato di 4 volte quella di partenza ed è un'asta che addirittura è stata talmente appassionante che è stata seguita in streaming, perché adesso è l'unica modalità che abbiamo per fare tutto, da quasi 300.000 spettatori, 280.000. Adesso lo scheletro sarà visibile dalle vetrine del Rockefeller Center di New York 24 ore su 24 fino al 21 ottobre, fino a quando il misterioso acquirente se lo andrà a ritirare. Sarei curioso di capire dove come lo ritira e poi, vabbè, dove lo posiziona. Avrà spazio, mi immagino, se ha 31,8 milioni di dollari non avrà problemi a trovare uno spazio adeguato. Al limite ristruttureremo casa. Esatto, perché da un gigante della musica a un gigante della preistoria hai un gigante, un gigantesco sconto del fisco. Esatto. Il 110%, oggi ne parliamo. Quindi preparate le domande, preparate le telefonate. 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Di là dal vetro sono pronti in posizione guardinga ed attesa. E anche un po' appannata di occhiali, vedo Paolo, esatto, come al solito noi disgraziati degli occhiali con le mascherine abbiamo una vita d'inferno. E allora, ecco. Claudia Schiattone e Paolo Corleoni sono lì, aspettano. aspettano di gestire questo flusso di telefonate. Avremo ovviamente un esperto di valore mondiale che ci affianca, super bonus fiscale del 110%. Ma perché ne parliamo proprio oggi? Perché qualche giorno fa finalmente li abbiamo visti nero su bianco i decreti pubblicati in Gazzetta ed emanati del MISE, del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi oggi faremo un po' di chiarezza sulle date in cui devono essere fatti i lavori o data dalla quale sono dovuti iniziare i lavori per ottenere il bonus, perché insomma la confusione non ci manca e quindi oggi cercheremo di dipanare questa matassa. In attesa di ricevere le vostre domande, le vostre richieste, noi facciamo un breve giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Qualsiasi cosa ci sia scritta in scaletta, questa che sto per dire è la prima notizia del giornale radio del risparmio. Chi ci segue sul Facebook o sullo YouTube già lo sa. Venga a prenderlo io che mi avvicino un po' meglio. Domani con il Sole 24 Ore in edicola l'ultima fatica letteraria di noi due, cioè di Deborah Rosciani e del sottoscritto Mauro Meazza. Peccato che il Nobel per la letteratura l'hanno già dato in questa settimana, perché altrimenti toccava a noi. Non avevano ancora a disposizione questo volume, guarda, altrimenti saremmo stati sicuramente in lizza. Investire è facile anche nei momenti difficili, soprattutto un catalogo per capire quando ci parlano i consulenti, gli operatori del risparmio, e magari anche se gli operatori del risparmio poi lo leggono, forse si fanno capire un po' di più da noi altri risparmiatori. Deborah, potresti agevolare cortesemente, certo, alla videoripcamera, esatto, la copertina del volume, peraltro molto bella. Ringraziamo sempre, esatto, Francesco Narracci, Adriano Atus e tutto lo staff dei grafici del Sole 24 Ore, quindi Guido Minciotti, Antonio Missieri. Abbiamo messo le uova in copertina, perché una delle grandi raccomandazioni che vi facciamo sempre è quella della diversificazione del vostro risparmio. Non mettete mai tutte le uova nello stesso paniere, perché se questo paniere casca, le uova si rompono tutte e poi c'è l'uovo d'oro. Speriamo appunto che non sia come dire un'immagine che confonde le idee degli ascoltatori. Non ci sono le idee vincenti di investimento, ci sono comportamenti vincenti che dobbiamo assolutamente impegnarci a seguire. Allora, possiamo adesso partire con la seconda notizia in ordine di importanza. Esatto. Che peraltro, allora, insomma, è abbastanza importante. L'antitrust ne combina una settimana. Sentiamo. Allora, l'autorità garante della concorrenza questa mattina presto ci ha fatto sapere che ha avviato, lo avete sentito anche nel giornale radio, ma siccome sono delle nostre grandi battaglie, noi così giriamo il coltello nella piaga, ha avviato altri 13 procedimenti istruttori, quindi vedremo come si concluderanno, nei confronti di altrettante società dell'energia. Adesso io vi posso anche dare il nome di tutti, un paio sono abbastanza conosciute, altre un po' più piccole, ma tutte quante praticamente insistono nel perseguire gli stessi comportamenti, cioè non sono molto trasparenti nell'indicazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. Questi sono appunto i rilievi formulati dall'autorità e si riferiscono sia alla documentazione contrattuale sia alla comunicazione promozionale. Le società sono Enel Energia, Optima, Green Network, Illumia, Wikiwi, Sentra, Olimpia, Gruppo Synergy, Gasway, Dolomiti Energia, E.ON, Axpo, Audax, Argos. E quindi per par condicio, tutte queste, chiariamo, ripetiamo, l'antitrust ha avviato una indagine, è un procedimento istruttorio, quindi non ci sono sanzioni, però vuole vederci chiaro sulle comunicazioni a noi utenti e sulle condizioni economiche di fornitura. Questa è la richiesta dell'antitrust. Invece prendete le agende. Esatto, vediamo se c'è il coraggio di raccontarla questa notizia qua. Scancellate la data del 4 novembre, non si dice scancellare, mi raccomando. Cancellate la data del 4 novembre che vi avevamo detto essere quella del click day per il bonus bici, monopattini, eccetera eccetera. No, dovete anticiparla, 3 novembre ci lo avvisa Pierangelo Soldavini sul Sole 24 Ore di oggi. Il click day per accedere al bonus, dopo vari rinvii eccetera eccetera, le richieste per incentivo fino a 500 euro potranno essere fatte dal 3 novembre sulla base dell'ordine di inserimento delle fatture sulla piattaforma approntata sul sito del Ministero, non sulla base della data delle fatture. Allora, è stato detto, il Ministro ha assicurato, ci saranno fondi per tutti, eccetera, eccetera. Però qui la sostanza della notizia è, come avverte l'amico Pierangelo Soldavini, qui la sostanza della notizia è, insomma, chi prima si inserisce nel portale ha più possibilità, ecco, di accedere subito al bonus, poi se arriveranno altri fondi, bene, questo noi ce lo auguriamo, anche perché, parola di ministro, è stato detto che arriveranno, quindi dovranno arrivare, cara Deborah. E soprattutto presentatevi all'appuntamento con lo SPID, perché altrimenti non vi apre nessuna, nessuno vi apre nessuna porta. Ricordo male? No, no, è così, ti ricordi correttamente. Allora, caro Mauro, un'altra bella notizia, speriamo che si tramuti in tale, è addirittura d'arrivo un protocollo per garantire ai commercianti zero commissioni sui micropagamenti con le carte fino a 5 euro. Questa è una misura inserita nell'ambito, anche se non è ancora operativa, ma qualche indiscrezione da Palazzo Chigi sarebbe trapelata in questo senso, è una delle misure che dovrebbero consentire appunto di far partire tutto il maxi piano di cashback nel nostro paese. Sapete che per combattere le fiscale e stimolare l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, il governo sta partendo con questa iniziativa che prevede una restituzione di un importo anche abbastanza interessante se nel corso di un anno tutti i consumatori si impegnano a pagare gran parte delle loro spese appunto con la moneta elettronica di pagamento. Però chiaramente i commercianti si lamentano molto, in questo senso ci sono moltissimi esercizi commerciali in Italia che non sono dotati di POS e della strumentazione adeguata, perché dicono per noi sono dei costi insostenibili e quindi chiaramente bisogna dare una mano anche a loro a rendere tutta questa operazione più sostenibile dal punto di vista economico, e quindi potrebbe essere questa una delle iniziative possibili. Un'altra iniziativa di sostegno è quella per le terme, per il settore delle terme. È in arrivo, lo riferisce Annalita D'Ambrosio oggi su Sole 24 Ore, è in arrivo un voucher, il voucher per le cure termali, è la seconda misura di sostegno per il settore. Però attenzione, non è ancora disponibile in tutte le sue pratiche operative, perché manca ancora il decreto applicativo, il decreto attuativo. Però insomma c'è ottimismo, perché ci sono 20 milioni per il 2020 e 18 per il 2021 per concedere dei buoni appunto agli utenti che acquisteranno servizi termali. Acquisteranno, perché ancora deve essere pienamente operativo. Certo. Allora io ti dico già che abbiamo una marea di domande sul super bonus, ma ti voglio leggere subito la domanda più importante che è arrivata stamattina. È disponibile anche in versione ebook il vostro libro? È disponibile anche in versione ebook, però io posso dare una dritta. Guardate che nelle ultimissime pagine del nostro libro, versione cartacea, c'è un buono, e questa volta non serve il decreto attuativo, per ottenere uno sconto su un libro che uscirà tra pochi giorni, quindi non domani ma tra qualche giorno, sempre per il Sole 24 Ore, un libro dedicato alle pensioni. Quindi se lo prendete in versione cartacea in edicola insieme al Sole 24 Ore, esatto, avete anche questo buono, sta nelle ultime pagine. Diamo una mano agli edicolanti e ai librai in questo modo, e non facciamo la solita pubblicità occulta alla grande piattaforma dove è possibile comprare gli ebook. Come occulta? Non siamo regolarmente retribuiti da questi signori. Mi ero scordata. Vabbè. Scherziamo naturalmente. Andiamo a parlare del bonus, il super bonus. Yeah. Tra l'altro scusami Mauro, no, perché sono adesso un po' colpita dalla mole di messaggi che stanno arrivando, colpita relativamente perché su questo tema non ci sorprendiamo affatto, arrivano sempre in tanti. Cari Deborah e Mauro, non vorrei avermela persa, una puntatina su caldaia, obblighi, pulizia, controlli, eccetera. Dobbiamo farla invece, mettiamola un po' in agenda settimana prossima. Guarda, direi che anche venerdì prossimo potrebbe essere il momento giusto. Sicuramente, allora ci mettiamo da parte le caldaie. Luca De Stefani, che è il super esperto per il super bonus, in collegamento già con noi. Bentornato, dottor De Stefani, ormai la voce amica del super bonus del 110% qui a Due di Denari. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, la prima cosa che dobbiamo dire, mi pare, è che c'è una data dalla quale abbiamo dei nuovi riferimenti tecnici. Cerco di dirla proprio nel modo più piatto possibile. Allora, dal 6 di ottobre, essendo arrivati in gazzetta i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, alcuni requisiti tecnici per l'accesso al superbonus, per i lavori che hanno accesso al superbonus, sono cambiati. Quindi i lavori iniziati prima di quella data, prima del 6 ottobre, viaggiano con i criteri di una dozzina di anni fa. Poi magari De Stefani preciserà meglio i termini. I lavori che sono iniziati invece dopo quella data viaggiano con diversi criteri. Non c'è tantissima differenza, mi pare, dottor De Stefani, però qualcosa è cambiato. Non vorrei essere un tecnico abilitato alle asseverazioni in questo periodo, dottor De Stefani. Certo, Luca. Perché devono disteggiarsi in tutti questi decreti ministeriali attuativi. Allora, è corretto, dal 6 di ottobre si aprono i criteri tecnici, diciamo, per fare un esempio, di trasmittanza termica, ad esempio dei cappotti piuttosto che delle finestre, un po' più importanti del decreto ministeriale del 6 agosto del 2020, mentre in precedenza dovevano essere applicati i criteri dei decreti ministeriali precedenti e quindi la novità grossa è precisamente questa. Poi sempre dal 6 ottobre di quest'anno, appunto, è stato pubblicato anche il Gazzetta Asseverazioni, che dà la possibilità di fare le asseverazioni per il 110%, perché ricordiamolo, è necessario effettuare una, i tecnici abilitati devono fare un'asseverazione, devono inviarla all'Enea, aspettiamo il portale dell'Enea che dovrà essere attivato a breve, e sì, c'è ancora questa cosa che stiamo aspettando, che è il portale Enea, per proprio tecnicamente inviare le asseverazioni che devono essere in regola con, appunto, in base agli allegati del decreto ministeriale del 6 agosto del 2020. E queste asseverazioni devono essere appunto inviate all'Enea e servono per poter beneficiare del 110% sia per gli interventi trainati che per quelli trainanti. Ecco. Allora, perdoni dottor De Stefani, qua dobbiamo sempre essere non chiari ma addirittura ripetitivi e noiosi. Giustamente lei dice i decreti del 6 agosto perché sono datati 6 agosto, non vorrei che questo ingenerasse confusione in chi ci ascolta, la data però di pubblicazione è il 6 ottobre, per questo motivo i nuovi criteri dei quali appunto dovranno far tesoro i tecnici per l'asseverazione, i nuovi limiti partono, decorrono dal 6 di ottobre, i decreti hanno la data del 6 agosto, ma questo ai fini delle asseverazioni non interessa. C'era però un altro problema legato ad un'altra data, quella del 1 luglio, perché Luca? Sì. 1 luglio è la data in cui entra formalmente in vigore il super bonus del 110%. Diciamo che comunque tutti i bonifici effettuati dal 1 luglio in poi di quest'anno fino alla fine del prossimo anno sono agevolati con il 110, anche se le asseverazioni vanno spedite più avanti e così via, possono essere agevolati. La problematica relativa ai lavori iniziati prima dovrebbe essere risolta, in quanto in base anche ad iscrizioni da parte dell'Enea sarà possibile in questo portale dell'Enea andare ad effettuare una APE, un attestato di prestazione energetica datata prima dell'inizio dei lavori, supponiamo 2 anni fa ad esempio, in cui si stabilisce il grado di efficienza energetica dell'edificio, che deve essere, ricordiamolo, deve essere aumentato grazie agli lavori sul 110% di 2 classi energetiche, e quindi poi si potrà alla fine dei lavori depositare sempre nel portale dell'Enea, oltre che nei portali delle regioni, questo attestato di prestazione energetica. Prima domanda, perché la metto per prima perché è una domanda un po' radicale in un certo senso. Un'omonima di Deborah, un'altra Deborah che ci scrive invece via SMS 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp, dice: mia figlia è incapiente, cioè non paga abbastanza IRPEF perché evidentemente non ha redditi così elevati. Come faccio allora per la ristrutturazione? Beh, una delle particolarità del 110% e non solo il 110% è che si può cedere il bonus ad altri, quindi questo dovrebbe aggirare il problema, ad esempio, alle banche che già si sono presentate sul mercato e si offrono di comprare il nostro credito se facciamo questi lavori. È corretto. È possibile effettuare la cessione del credito alle banche o a terzi, anche ad altri soggetti, oppure chiedere lo sconto di fattura direttamente al fornitore. In entrambi i casi c'è la convenienza, perché la detrazione non viene usata dal contribuente, dalla persona fisica, nella propria dichiarazione che non ha l'IRPEF sufficiente, ma viene trasferita ad altri, viene trasferita ad un prezzo. Se abbiamo una detrazione pari al 110% rispetto all'importo della fattura, questa viene ceduta completamente, quindi il 110% viene ceduto, potrebbe essere che la banca banca o un terzo mi paghi questo credito d'imposta il 101-102%, in modo tale che l'1-2% in più rispetto al 100% mi servono per pagare ad esempio gli interessi di questo finanziamento che la banca mi dà, le spese di istruttoria o altre cose. Diciamo che la cessione del credito è possibile effettuare la cessione del credito già da oggi formalmente tra le parti, però va comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 15 di ottobre di quest'anno, quindi dalla settimana prossima è possibile accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate per accedere a questa comunicazione di opzione, di cessione o di sconto in fattura. Si potrà fare questa operazione fino al 16 marzo del prossimo anno e la banca o comunque il terzo cessionario potrà iniziare ad utilizzare in compensazione questo credito dal 1 gennaio del prossimo anno e comunque dopo 10 giorni dall'invio, quindi si presume appunto che se l'invio viene effettuato a fine di quest'anno, già dal 10 all'ultimo mese di quest'anno, già dal 10 di gennaio del 2020, il cessionario può iniziare a usare questo credito in compensazione delle loro tasse, delle loro imposte. Benissimo, allora siamo giusti alle 11.30 praticamente e allora è il momento delle borse. Oh, io vorrei sentire un giorno invece Deborah Rosciani che invece di parlare di borsa alle 10.30 esordisce parlando d'altro. Vediamo. Di moda, come dicevo l'altro giorno, proviamo, non lo so, di serramenti, di aperture a vasi. Due di denari. Dottor Mazza, buongiorno, ma quanto è simpatico lei? Lei è, io mi diverte troppo, veramente mi piacerebbe averla come amico. Buongiorno Deborah Rosciani, ti voglio io come amica. E non solo per darmi le notizie di borsa. Con quest'ultimo messaggio appena ascoltato stiamo sfiorando lo stalkeraggio. Libertà, libertà per la Rosciani, libertà per Meazza. I want to break free. Ma sarà che è venerdì, ma qua Claudia Schiattone, devo dire, si è superata. Si prende anche un po' gioco di noi. Ha fatto questa ristrutturazione che merita davvero un super bonus, come quello di cui stiamo parlando. Un super montaggio, una super ristrutturazione. Claudia, grazie Claudia. Grazie. Allora, intanto volevo dirvi, a proposito di notizie, che l'asta botte di questa mattina, il Tesoro ha messo sul mercato 7 miliardi di titoli annuali. Ebbene, se volete investire in un bot ad un anno, sappiate che fra un anno lo Stato vi restituisce lo 0,43% in meno di quello che gli avete dato. Quasi quasi che vale la pena utilizzare la stessa quota di risparmio per rimettere a nuovo la nostra abitazione utilizzando il super bonus, perché effettivamente un po' sono questi i conti della serva che vanno fatti spesso. Sì, perché allora qualche ascoltatore, più di uno devo dire, nei messaggi dice: ma è proprio vero che non si tira fuori un centesimo? Allora, questa cosa qui la ripetiamo tutte le volte, io chiedo sempre l'assistenza, Luca De Stefani, esperto del Sole 24 Ore, dottore commercialista, mi raccomando, mi segua mentre io faccio questo pericolosissimo riassunto. Allora, sì, se tutti i lavori passano, per così dire, l'esame, l'asseverazione, sono tecnicamente adeguati, eccetera, eccetera, è possibile che gli interventi avvengano senza dover pagare un centesimo, anzi addirittura insomma si potrebbe prendere qualcosina di più, come ha spiegato ad esempio Luca De Stefani poc'anzi. Se io cedo il credito a una banca, la banca me lo compra a 102, perché ovviamente si mantiene un po' di margine per guadagnarci, mi fa un prestito, io prendo questo prestito, magari è un po' meno di 102 l'interesse, di 2 l'interesse che devo pagare, e quindi in questo modo poi restituisco e sono in una condizione addirittura di aver guadagnato qualcosina, sicuramente di più, ed era l'esempio che faceva annuale. Deborah, del bot a un anno, il quale invece in questo momento io compro a una cifra ma so già che mi restituirà un meno 0,43. Dottor De Stefani, spero di non aver sbagliato nulla, non aver confuso ulteriormente le idee ai nostri ascoltatori. È tutto giusto, è corretto, il guadagno della banca sta in quella differenza tra il 110 e il 102, quindi l'8% è un netto di detrazione che la banca si detrae da qui ai prossimi 5 anni. Ecco, quindi allora, il vantaggio c'è anche per la banca. Alla proposito di case, abitazioni, edifici e condomini, mi metterei a fare la portinaia, a far entrare tutti gli ascoltatori che stanno bussando alla nostra porta, perché come al solito su questo tema, come diceva giustamente prima Mauro a microfoni spenti, non tanto dobbiamo anticipare che parleremo del bonus 110%, basta pronunciare 110 e già cominciate subito a comporre i nostri numeri per intervenire. Allora, aprirei subito le danze con Dario da Bergamo, perché proprio voleva avere dei chiarimenti sull'aspetto che Mauro ha appena chiarito, cioè passa il messaggio che effettivamente non si debba pagare nulla per fare il lavoro in casa. Chiariamo bene questi termini, soprattutto sentiamo il quesito del nostro ascoltatore da Bergamo, che è un amministratore di condominio peraltro, e quindi Dario, avete in mente di fare qualche lavorone importante nell'edificio che lei amministra? Buongiorno a tutti quanti, io amministro 150 condomini nella bassa pianura bergamasca. Tutti i condomini mi dicono: guardi che facciamo i lavori gratis, anzi ci vengono indietro i soldi. Ma se io vado dai tecnici a cominciare, dal termotecnico che mi dice che tanto per cominciare lo devo pagare e recupererò il 50%, in più ci sono altre spese e la banca con la cessione del credito mi dice che ad andare tutto bene porterò a casa un 85% di quello che è il valore. Allora qualcuno mi sta raccontando delle frottole, ma io ho voi che dite che è vero che portiamo a casa il 100%, gli altri che mi dicono di no, chi ha ragione e chi ha torto, perché io sono in mezzo e prendo del, scusate, esatto, il termine, del cretino da tutti perché non so fare il mio lavoro. No, no, Dario, è che ci sono dei casi estremi in cui sicuramente è vero, però giustamente dice lui, anche il tecnico per farti l'asseverazione, per farti la certificazione energetica dell'edificio di partenza e poi anche finale, perché tu devi far fare il doppio salto di qualità alla casa che avrà appunto il bonus. E quindi De Stefani, effettivamente anche le perplessità dell'ascoltatore non sono sì, pertinenti. Sicuramente. Sicuramente, perché poi vi possono essere anche dei lavori che non sono trainati al 110% e quindi hanno la detrazione classica del 50%. Diciamo che comunque per quanto riguarda il termotecnico, il fornitore, si parla di sconto in fattura oppure cessione del credito direttamente al fornitore, però difficilmente le piccole imprese accettano questo sconto in fattura o questa cessione del credito e hanno la piena libertà di non accettare questa proposta che fa il condominio, mentre le banche si sono già attivate, in molti si sono attivate, abbiamo scritto diverse volte nelle pagine del Sole 24 Ore. Li abbiamo ospitati anche noi proprio per farci raccontare come seguiranno queste pratiche. Sì. Esattamente, le percentuali più alte sono il 102%, poi se uno chiede a me commercialista a quanto io compro al 60, 80%, ha capito, perché devo avere anch'io un guadagno, ma sono un piccolino, mentre la banca si sono strutturate proprio per guadagnare quell'8%, l'8% sui numeri di acquisto che possono fare le banche dei crediti imposta sono un bellissimo vantaggio fiscale che le banche hanno, considerando i costi di gestione dell'operazione che può essere un 1%, comunque c'è un netto di tasse che si paga in meno. È il famoso salto fiscale che noi commercialisti cerchiamo sempre nei meandri delle norme fiscali. Allora, speriamo di avere chiarito questo dubbio, no? Non è che sia automatico riuscire a non cacciare un centesimo e fare i lavori. È un procedimento abbastanza complicato. Se tutto funziona come deve funzionare, si riesce a chiudere sostanzialmente in pari e quindi a non cacciare un centesimo o addirittura magari avere un piccolissimo guadagno. Certo. In molti altri casi bisogna prevedere che ci siano delle spese e quindi magari anziché recuperare il 100% si potrà recuperare, che so, un qualche punto percentuale in meno, forse un 80, un 90%, come peraltro giustamente ricordava De Stefani, è stato scritto a più riprese proprio sulle pagine Sole 24 Ore. O forse ore. Mauro, poi ti lascio al tuo momento poetico perché vedo che sei già ispirato, stai già partendo, proprio male male che vada, se non trovi la banca che ti fa la cessione del credito d'imposta totale o l'azienda che ti fa lo sconto in fattura che ti aspetti, sicuramente anticipi la spesa e poi hai tutto il beneficio fiscale l'anno prossimo in dichiarazione dei redditi. Ma su questo, guarda, torniamo appena dopo la poesia, così facciamo il sonetto, per favore, Paolo. Ha raccolto per l'ennesima volta la nostra sfida poetica l'ascoltatore Romolo Scudiero, che si autodefinisce pensionato da Giffoni Sei Casali, provincia di Salerno. E noi lo salutiamo. Un componimento intitolato Omaggio a Deborah Rosciani e Mauro Meazza, anche alla mia modesta persona. C'era una volta ogni lunedì mattina uno spazio lirico in due di denari, ove Meazza con fine parlantina declamava versi con maestria senza pari. Erano e sono suoi sonetti di stile medievale, al par di antichi menestrelli fiorentini, a trattar di economia nel bene e nel male, comunque sempre in tema di quattrini. Quindi, imposte, tasse, obbligazioni, temi condivisi con la bella esperta Rosciani. Solerti segnalavano tutti i trappoloni a beneficio di ascoltatori giovani e anziani. Da quando lo spazio è il venerdì mattina, lanciata è la sfida per ascoltatori provetti, ma tutti finora hanno tenuto testa china, tanto somma è l'altezza dei suoi sonetti. Intanto convien seguir i lor dotti consigli. Io attento ad ogni prescrizion mi applico. Staiano allerta nonni, genitori e figli, poiché il pericolo c'è, forse ancor più del traffico. Ma fate un po' di scuola guida ogni tanto. Due di denari. Per quanto riguarda il discorso del bonus 110% delle banche, io ne ho contattate tre di banche a ieri. Mi hanno detto tutte e tre che sono ancora in attesa di ricevere dalle loro sedi centrali le istruzioni, per cui al momento non è possibile per queste tre banche accettare la cessione del bonus del 110% in toto, che era una bella possibilità, perché se uno deve spendere 20.000 euro e non li ha, si ha la possibilità di cedere il bonus alla banca e di far pagare direttamente alla banca, capite che fa la differenza. La cessione del credito si riserva solo al bonus 110% o qualsiasi tipo di ristrutturazione? Ottima domanda, dice Mauro Meazza. Adesso risponderemo. Per quello che riguarda le banche, io direi di suggerire all'ascoltatore di continuare a fare il giro. Per quello che sappiamo, per certo, Banca Intesa sta già procedendo alla grande con la cessione del credito, è già partita. Poi se mancano delle ulteriori filiale è un po' meno informata, è strano, perché c'è anche stata una campagna di comunicazione molto importante. Unicredit è partita, Monte dei Paschi è partita, le grandi sono partite. Noi ne abbiamo scritto delle gran pagine, qualche volta ritengo un po' come per le moratorie sui mutui, che sia questione di filiali che becchi, che pizzichi, che non sono molto che non al sono passo. Allineate. Luca De Stefani, esperto del Sole 24 Ore, la cessione del credito è possibile solo con il super bonus del 110%, sì o no? No, è possibile effettuare la cessione del credito dal 1 gennaio di quest'anno e fino alla fine del prossimo anno anche per i classici lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, piuttosto che tutti gli ecobonus alle percentuali più basse rispetto al 110%, quindi al 65%, al 70%, fino all'85%. E anche per il sisma bonus, vecchio stile, chiamiamolo, quindi dal 50 all'85% è possibile effettuare la cessione, bonus facciate, fotovoltaico al 50% e le colonnine al 50%. Andrei nelle Marche, se non ti dispiace, Mauro. Lo so. Andare da Mauro di Fermo. Mauro, benvenuto. Buongiorno, sempre una domanda abbastanza secca. Da più parti c'è scritto che al massimo due unità immobiliari, sì, lasciando perdere i lavori condominiali. Adesso io e mia moglie abbiamo al 50% quattro villette unifamiliari. Mm-hmm. Io vorrei sapere se pagandone io due, bonificandone i lavori su due, e mia moglie bonificando i lavori sulle altre due, in realtà ne possiamo sfruttare il 110% per tutte e quattro. Grazie Mauro. Luca? Allora, se queste quattro unità abitative sono all'interno di un unico palazzo, purtroppo siamo nel caso criticato più di una volta dell'unico proprietario di un edificio con più unità immobiliari. In questo caso non si può beneficiare di nulla, né sulle parti comuni né per quanto riguarda i lavori sulle singole unità immobiliari. Se invece, come mi sembra che l'ascoltatore abbia detto, sono quattro ville separate, quattro unifamiliari separate, ecco, in questo caso certamente non c'è nessun problema, l'importante è che appunto per due abitazioni vi sia il bonifico parlante e il sostenimento delle spese di un soggetto e il coniuge invece fa i bonifici parlanti per gli altri due abitazioni. Ma a parte il commercialista, come nel caso di questa diretta, chi può dare l'informazione corretta al nostro ascoltatore di Fermo? Il tecnico che farà le certificazioni sulle caratteristiche energetiche della casa, chi glielo può dire con assoluta certezza? La norma lo dirà? Certo, allora, architetti, geometri, commercialisti sono i tecnici a cui noi commercialisti dovremmo fare il visto di conformità, perché per obbligo siamo noi, oltre che i consulenti del lavoro, e quindi dobbiamo fare per la cessione del credito, dobbiamo fare il visto di conformità. Mentre per quanto riguarda le asseverazioni fiscali, quindi gli aspetti più tecnici di trasmittanza termica, sono incaricati appunto a fare questi lavori tecnici abilitati, che sono proprio tecnici, quindi architetti, geometri, ingegneri e così via. C'è Alfredo da Roma, hai visto che ha un caso invece di altra natura, sì, verrebbe da dire. Alfredo, buongiorno. Buongiorno, grazie. Volevo soltanto richiedere questo. Mia moglie ha un'azienda agricola con un agriturismo. Con un agriturismo, sì. Sì, e su quell'immobile ci sono le camere, gli appartamenti, eccetera, eccetera, che affittiamo normalmente come agriturismo. Volevo sapere se è possibile usufruire del bonus 110% in questa situazione. Lo chiediamo subito a Luca De Stefani. Prego, Luca. Grazie. Come ha scritto il collega Tosoni sulle pagine del quotidiano, due o tre articoli molto interessanti. Allora, per quanto riguarda le ditte individuali, che sono imprese agricole, agrituristiche, non ci sono grossi problemi per quanto riguarda le abitazioni rurali. Invece, se queste rimangono all'interno di società semplici agricole, non è possibile beneficiare del 110% a parte casi particolari. Però nel caso appunto dell'ascoltatore mi sembra di capire che si parla di persona fisica che è proprietaria di abitazioni, che siano rurali o meno, in queste abitazioni se sono più di due unità immobiliari non riusciamo ad avere l'agevolazione, se invece è un'unità, fino a due si può fare, certo. Il problema è che c'è l'unico proprietario di un unico edificio con più unità immobiliari e quindi se stiamo in questo ambito qua non è possibile beneficiare del 110%. C'è un ascoltatore che chiede: per favore fate un esempio di tutto il percorso 110%, ne potremmo fare 5.000, dipende dal lavoro che bisogna fare in casa, esatto. Dipende se si vuole rivolgere alla banca o chiedere lo sconto in fattura, ma prendo l'ultima parte della domanda dell'ascoltatore e magari faremo una puntata a Mauro con gli esempi molto concreti, passo dopo passo a seconda delle circostanze. Le spese accessorie vanno nel rimborso 110? Che cosa si intende per spese accessorie? Immagino che lui voglia dire le spese per il tecnico, le spese per le prime perizie. Per è quello capire che diceva che prima l'amministratore fare di condominio, no? Credo Luca. Sia così, Luca. Sì, allora, qui è stata fatta una domanda anche all'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le spese effettuate ad esempio da una società che non è un tecnico abilitato per progetti di prima fattibilità dell'intervento. È stata fatta una domanda all'Agenzia delle Entrate che speriamo venga risposta a Telefisco 110% che è in programma per il 27 di questo mese qua, al mattino, bisogna registrarsi nel sito del Sole, è un convegno gratuito. Trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore di oggi, tra l'altro nella pagina dedicata al Superbonus, come quasi ogni giorno compaiono articoli sul Superbonus 110%. L'ultima cosa, Mauro, perché Claudia giustamente scrive: il tecnico che mi ha fatto la manutenzione della caldaia mi ha detto che l'agevolazione è possibile solo se si fanno anche altre opere. Effettivamente non abbiamo ricordato il tema portante, i lavori trainanti e quelli trainati, in 30 secondi. Luca. Volevo concludere con l'altra cosa, per quanto riguarda le spese di asseverazione di visto di conformità, queste sono detraibili sicuramente al 110%, la problematica sono le spese di fattibilità che non si sa se sono detraibili. Certo. Per quanto riguarda, scusa l'ultima domanda, Debra, mi dicevi? No, il lavoro portante, nel senso che non è che tu ti alzi, fai un lavoro e hai il 110, cioè proprio è importantissimo effettuare i tre interventi trainanti. I tre interventi trainanti sono il cappotto termico con una trasmittanza importante e con dei materiali, chiamiamoli ecologici, oppure il cambio della caldaia, che può essere fatta sulla singola unità immobiliare oppure sulle parti comuni condominiali, e deve essere una caldaia centralizzata. Quindi se fai questi e fai contestualmente la ristrutturazione del bagno, che generalmente ha l'agevolazione fiscale del 50%, ti vanno tutti sotto il 110. Corretto, anche le finestre, che sono un intervento trainato appunto. ma quante ne sa, ma Deborah, guarda, non solo ma degli io quasi, investimenti. Quasi mi faccio un'impresa edile, guarda, ma tanto sai che mi piace. Allora, grazie Luca De Stefani. Luca De Stefani, non lasci il paese perché avremo ancora bisogno di lei in altre trasmissioni. E voi grazie. Invece ricordatevi, domani in edicola con il Sole 24 Ore, investire è facile anche nei momenti difficili, ultima fatica letteraria, il libro di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Vado a ritirare il Nobel. Buon fine settimana a tutti. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.